Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Benvenuti alla prima puntata del 2013 della trasmissione Il Quadrifoglio. Questo che è appena iniziato è un anno importante per l'agricoltura veneta che, dopo gli alti e bassi del 2012, si aspetta buone notizie sia da Roma sia da Bruxelles soprattutto, dove si è approvato il nuovo piano della PAC, la politica agricola comunitaria, da cui dipenderà buona parte dello sviluppo dell'agricoltura italiana e, in particolare, veneta. Su questo argomento torneremo nelle prossime puntate. Però non c'è solamente questo in questo 2013 e per fare un po' il punto della situazione dell'agricoltura abbiamo pensato di iniziare il nuovo anno ponendo alcune domande all'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato. Assessore Manzato, partiamo dalla politica agricola comunitaria. Che cosa cambierà per l'agricoltura veneta e cosa vi aspettate di poter ottenere in questi ultimi mesi di negoziato? Beh, innanzitutto che venga confermato sostanzialmente il bilancio rispetto all'agricoltura, che il bilancio comunitario è sempre stato importante, se viene riconfermato già un passo in avanti, anche se mi aspetto nel 2020 un ridimensionamento molto, molto forte. Ovviamente quello che viene posto sono i problemi che sono attinenti all'agricoltura in senso stretto, nel senso di come per esempio distribuzione delle risorse di aiuti diretti che viene sostanzialmente rivista perché viene presa in considerazione la superficie, non la qualità, e questo potrebbe essere sicuramente importante in termini negativi per il nostro comparto che è fatto di produzione di qualità, penso al settore zootecnico in primis, che potrebbe avere sicuramente delle contraindicazioni molto negative. Sicuramente si andrà verso una iniziativa veri giovani, questo è importante perché è una fascia che in questo momento sta rispondendo molto bene, questo l'ha intuito anche la Commissione, vuol dire che gli input sono stati importanti. Sarà necessaria la semplificazione perché non possiamo pensare di essere competitivi con il resto del mondo avendo un carico burocratico amministrativo per le imprese che le soffoca in termini anche di costi. Chiediamo che si possano competere col mercato mondiale, per poi in definitiva magari li copriamo di norme e di articoli amministrativi che in qualche modo li stanno soffocando. E poi invece degli aiuti specifici, ovviamente la nuova PAC si sta indirizzando molto sull'ambiente e questo diciamo ha i pro e i contro. I pro, che ovviamente l'ambiente è un bene da tutelare in maniera molto forte e sarà un fattore di competitività in futuro, dall'altro che gran parte delle risorse andranno appunto al greening, a tutto un certo tipo di settore che non è legato alla competitività diretta dell'impresa agricola. Ecco, lei ha parlato anche di qualità della produzione veneta, ha ancora senso puntare sulla qualità per restare nel mercato per i nostri produttori o è l'unica soluzione? Noi abbiamo tantissimi prodotti tipici sia a livello agroalimentare che anche a livello enologico, continuiamo a puntare su questo? Sì, lei ha perfettamente ragione. La regione Veneto poi si evidenzia come una regione di grande produzione di qualità. Il problema è che noi spingiamo fortemente, anche così come la Comunità Europea, a prodotti a marchio, DOP, GP, DOC e DOCG, però non ci consegnano le risorse necessarie per la promozione degli stessi, perché quando riteniamo di avere raggiunto il top in termini di qualità, dobbiamo avere anche la forza finanziaria per poi esportare a livello mondiale, quindi far conoscere i prodotti di qualità a livello nazionale e anche a livello internazionale, e da questo punto di vista la promozione, le risorse per la promozione sono a livello comunitario sono sempre meno, cosa che invece deve avere vedere una svolta. Se io chiedo a un imprenditore di investire in qualità, dopo questo investimento che fa l'imprenditore deve avere anche una remunerazione di ritorno che spesso e volentieri non c'è. Facciamo una breve pausa, ci sentiamo tra qualche minuto. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Sono orfano di acqua e di cielo. frutto che da terra guarda il ramo, orfano di origine e di storia e di una chiara traiettoria. Sono orfano di valide occasioni, del palpitare di un'idea con grandi ali, di cibo sano e sane discussioni, delle storie degli anziani, cordoni ombelicali. Orfano di tempo e silenzio, dell'illusione e della sua disillusione, di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire, un maestro da ascoltare, di ogni mia giornata che è passata, vissuta, buttata e mai restituita. Orfano della morte e quindi della vita. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Sono orfano di pomeriggio al sole, delle mattine senza giustificazione, del nero di lavagne e di vinile, di lenzuola sui balconi, di voci nel cortile. Orfano di partecipazione e di una legge che assomiglia all'uguaglianza, di una democrazia che non sia un paravento, di onore e dignità, misura e sobrietà, e di una terra che è soltanto calpestata, comprata, sfruttata, usata e poi svilita. Orfano di una casa, di un'Italia che è sparita. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Di nuovo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Ospite della puntata oggi è l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato. Molti giovani vorrebbero tornare all'agricoltura, c'è molto interesse soprattutto da parte dei giovani di un ritorno a questo settore primario. Cosa state facendo voi e perché un giovane può trovare realmente delle risposte per il proprio futuro anche nel settore agricolo? Ma innanzitutto perché è un settore che in controtendenza rispetto al secondario e ai servizi sta avendo e ha i fondamentali importanti. Non sto parlando di aumento di reddito, però sta avendo dei fondamentali importanti, quindi significa che il lavoro fatto negli ultimi decenni è stato positivo. D'altro canto noi abbiamo puntato come assessorato moltissimo sui giovani. Gli ultimi tre anni hanno visto oltre 2500 giovani entrare in agricoltura tra cambio generazionale e nuovi giovani, e abbiamo investito molte risorse. Proprio in questo momento in cui stiamo parlando, circa 11 milioni di euro li abbiamo messi già a disposizione dei giovani, più accordi con Ismea per fare gli investimenti. Mi aspetto altri 250 giovani entro il 2013, perché ritengo che abbiano delle opportunità importanti anche in termini di reddito e di occupazione. D'altro canto abbiamo inserito nel nuovo disegno del nuovo piano sviluppo rurale, nuova PAC, che inizierà nel 2014, un gruppo giovani, un gruppo di 10 giovani che affiancherà la Regione del Veneto nel costruire delle misure che in qualche modo possono essere interessanti appunto per i giovani stessi. Quindi sono protagonisti non solamente nel ricevere finanziamenti, ma anche per disegnare il futuro sia della Regione sia dei loro stessi come impresa. Sempre pensando anche ai giovani, ma non solamente, il turismo, e faccio fatica un po' a pensare turismo e Regione Veneto separati dall'aspetto ambientale e anche agricolo della Regione. Voi da poco avete anche come Regione approvato una legge sull'agriturismo. Cosa si sta facendo e ha senso puntare anche su questo, cioè maggiormente sul turismo e legato all'agricoltura? Sì, dice bene quando l'agriturismo e agroalimentare non può essere, e turismo non può essere staccato. Io ci aggiungerei anche cultura, turismo, agricoltura, agroalimentare e cultura, perché sono tre segmenti che non può essere disgiunti proprio per come è configurato il Veneto, che è la prima regione turistica d'Italia, fa oltre 63 milioni di presenze l'anno. Il terzo motivo per cui si sceglie il Veneto è l'enogastronomia, quindi ovviamente il turismo e l'enogastronomia devono andare di pari passo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire sia che ci sia un'integrazione nella promozione dello stesso, ma anche nel far conoscere ciò che in qualche modo non riusciamo a far conoscere andando solamente all'estero. Quindi si parla molto anche di incoming, lo si vedrà nel 2013, ci saranno oltre 300-350 tra soggetti importatori, grossisti, giornalisti di settore che verranno in Veneto e in 4 mesi da est a ovest vedranno tutto quello che è l'enogastronomia, l'agroalimentare, ma anche il turismo, sarà legato alla promozione delle zone turistiche, la promozione delle zone culturali, ambientali, proprio per far capire che la nostra produzione di qualità è legata anche all'ambiente, ma è legata anche a un paesaggio, un territorio accogliente anche turisticamente. Ecco, ultima domanda su Veneto Agricoltura, questa grande istituzione che anche promuove tantissime attività anche di ricerca nel Veneto, si prevede un cambiamento, che cosa c'è in programma? Beh, ci sarà sicuramente un cambiamento anche radicale, perché sarà finalizzato l'ente strumentale Veneto Agricoltura all'innovazione, alla ricerca, alla gestione della biodiversità, questo per la ricchezza che contraddistingue il Veneto dal punto di vista della biodiversità appunto. Questo significa però anche concentrare molto di più sull'innovazione e sulla ricerca, perché credo che l'innovazione sarà determinante per la competitività del sistema agricolo futuro, non solamente una ricerca e innovazione nel campo agricolo, ma anche un trasferimento tecnologico da altri settori, penso al secondario, penso ai servizi, al mondo agricolo. E qui ne vedremo, diciamo, come si dice, delle belle, perché non solamente il Veneto Agricoltura opererà in questo settore, ma anche un centinaio di ricercatori da altri ambienti verranno sulle aziende agricole più competitive per trasportare nuova tecnologia. Credo che questo sarà il futuro, tutto deve essere però finalizzato sia all'abbattimento dei costi che all'aumento del reddito delle imprese agricole, perché ovviamente il reddito è il punto fondamentale sul quale si muove anche l'azione regionale. Ringraziamo l'assessore Manzato per la sua disponibilità. Passiamo adesso ad alcune notizie. Crescono i mercati dei contadini, i cosiddetti farmer markets, che secondo il monitoraggio della Regione Veneto, aggiornato a giugno 2012, risultano essere 72 nella Regione. Venezia è la provincia con più mercatini, seguita da Verona. Si stima anche che siano 400 circa gli imprenditori agricoli coinvolti in questa attività di vendita. Crescono i mercati aperti durante un giorno feriale, ma settimanalmente, mentre hanno perso interesse quelli a periodicità più lunghe o aperti solamente nei fine settimana. I consumatori, stimati in oltre 1 milione, effettuano acquisti per un giro d'affari, ormai stimato in oltre 15 milioni di euro all'anno. È stata approvata a dicembre la cosiddetta legge Salva Olio Italiano, un tassello importante nella continua battaglia alla contraffazione sugli oli extravergini di oliva. Tra i nuovi provvedimenti si va dall'inasprimento delle sanzioni al rafforzamento dei metodi investigativi, dal riconoscimento di nuovi parametri e metodi di controllo qualitativo all'introduzione in etichetta del termine minimo di conservazione a 18 mesi dalla data di imbottigliamento. Positivo il giudizio di Coldiretti sul provvedimento che, afferma, riconosce la lealtà dei produttori veneti DOP ed è stato ottenuto grazie all'appoggio di tutti i gruppi parlamentari nonostante i non pochi bastoni tra le ruote. Secondo la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, ad aver fatto la parte del leone nella notte di San Silvestro nel Veneto sono stati gli agriturismi. preferiti da molti ai tradizionali veglioni dei grandi ristoranti. Per un pasto di grande qualità la spesa media è rimasta contenuta negli agriturismi tra i 50 e i 100 euro a persona. Nei menù sono stati privilegiati cibi e vini di grande genuinità, tipicità e qualità. Secondo una stima nazionale della CIA, scende invece sensibilmente da qualche anno la percentuale degli italiani che chiedono nel menù di San Silvestro specialità estere come il caviale e il foie gras. Sono stati 500.000 e oltre gli italiani che alla fine delle festività, Befana compresa, hanno consumato un pasto e trascorso almeno due notti in un agriturismo. Anche per questa settimana è tutto, ci vediamo appuntamento alla prossima settimana con il Quadrifoglio. Vi ricordiamo che questa e le trasmissioni precedenti sono scaricabili dal sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.